ti fai con la spada del tuo amico. Sì, lo so anch'io che sa essere uno schifo, ma dico guarda un po' come sei finito. Se devi proprio farti, fallo sì, ma in modo corretto. Io non son da meno perché me la bevo, questo sì lo ammetto, ma non siamo neanche pari. Trasmetto le storie più reali, vola il mio concetto, manco avesse le ali. Qui ad SS ho stretto legami con i più leali, voglio stringere più mani, che se no noi domani ci sbraniamo come cani. Buona per chi manda rap nei locali, buona la bevanda con la quale affogo i mali. Buona i miei compari che restano tali, più seri che lettere cubitali, cubitali. Fissi giù facendo i nostri affari, apro la pratica a Sassari, quei fottuti casi strani. E sì che ognuno punta il suo benessere, da chi barcolla chi vuole essere grosso chiedendo tessere. No more pain, questi ragazzi sono in estasi, ci buttano il cervello e dopo fanno festa, sì. E vita spicciola della cittadina, stanotte si delira ma domani è tutto come prima. Se sono zombie resta quel poco di vita che trovo mentre tuono al micro, manco avessi un mitra. E certe volte la strada che fa la troia taglia teste tipo un boia e poi le gette in salamoia. E la carogna è sempre dietro l'angolo, passo le mani per terra e te ne raccolgo un grappolo. Ma finché sei va bene, e per subire sei meglio spezzare schiene, scalcia la spada col piede. Miseri mortali ci fanno giù con gli aghi, con l'alcol, le stupefacenti. Vai, assassini tra infami, non siamo vegetali, ci teniamo in vita col micro nelle mani. Miseri mortali ci fanno giù con gli aghi, con l'alcol, le stupefacenti. Vai, assassini tra infami, non siamo vegetali, ci teniamo in vita col micro nelle mani. Racconto quello che praticamente vedo, visto stando in giro, e non capisco, sembra tutta fantasia, ma non è così. Dai uno sguardo nella via, quella tua, quella mia, credo che oramai non faccia neanche differenza. I ragazzini disagiati vogliono la roba, quelli più tranquilli tutto il resto della droga. La città ci annoia, un writer la colora perché è troppo buia. Poi come fa e si esprime quello che gli passa per la testa, la felicità di fare quello che fa oppure la protesta. Da quando ho iniziato sono il tipo che non si arresta, che sa destra, esperienza fa da maestra, ma gente seria qua quanta cazzo ne resta, perché come vedi troppa oramai si è persa. Noi sempre qua, puoi farci una scommessa. C'è chi detesta perché la mente è malata e trova pace illimitata solo dopo che se l'è calata. C'è chi lo fa senza scopi secondari e trova luce nei fari di sostanze mangia crani. Noi sputando fuoco come Draghi, se il volume va a 40 con i gradi lo si fa percorrere i ripari. Da un'ondata di paranoia acuta, ma non la scorgo più perché me la sono bevuta. Ognuno ha i modi propri, già lo sai che non li stoppi, bastardi che di notte fanno gli zoppi. E se mi trovo in strada fermo è perché Giano sta bombando la serranda, io gli sto facendo il palo. È l'underground che si stone attorno masse di comparse a teste basse, già, che vanno prese arse. Questo è l'asse su cui viaggia il posto dove sto, c'è chi diserta sempre, chi lo spinge ad ogni costo. Miseri mortali ci fanno giù con gli aghi, con l'alcol, le stupefacenti. Vai, assassini tra infami, non siamo vegetali, ci teniamo in vita col micro nelle mani. Miseri mortali ci fanno giù con gli aghi, con l'alcol, le stupefacenti. Vai, assassini tra infami, non siamo vegetali, ci teniamo in vita col micro nelle mani.